imbecillo. È la lato. Orla bordo lo svela. Uno squillo. Uno squillo. Corporato il carbon. È la nave del duce. Forza fonda. Forza in cena. Ed il mostro dall'onda. E le nomi si cena in metà. E la luce di anche la fa. Vittoria, vittoria, sei vivo, distrutto, sei colpito, non mi do. Ebben, che pensi? D'affogarmi! Volto a chi s'affoga per amor di donna. Vincer non so. Su via, fa senno, aspetta l'opra del tempo. Codestemona bella, che nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in uggia verranno i foschi baci di quel selvaggio da me gonfie labbra. Buon Rodrigo, amico tuo sincero, mi ti professo, ben più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragil voto di femmina dove troppo nodo per il genio mio e per l'inferno. Giuro che quella donna sarà tua. Ascolta, benché io finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda. Quell'azzimato capitano usurpa il grado mio, e cento ben pugnate battaglie ho meritato. Tal fu il voler d'Otello, ed io rimando di suo amore signoria l'alfie. Ma com'è ver che tu Rodrigo sei, così è pur vero che se il moro io fossi, vero torno un anno. Se tu m'ascolti, come la notte lo stella! Quel zoppo! Rodrigo de Leon, qua la tazza capitano, non bevo più, che noia questo sorso, no, guarda, oggi impazza tutta il Cipro, e la notte di gioia, dunque, cessa, chiamar del cervello per un acqua potato, e ancora per te, alle nozze d'Otello, e da sole, questo lito, ascolta, col vago suo raggiar, chiama i cori a raccolta. Pur modesta e sai tanto, tu iago canterai le sue lodi. Io ascolta, io non so che un critico, e della donna in lode più bella, da quel Cassio che temi? Ehi, favella già con troppo bonore, la gagliarda giovinezza sprona, e l'astuto seduttore che ti ingombra il cammino. Vada, sei silenzio, hai perduto, fallo per. Qua, ragazzi, dal vino! Innaffia l'udola, trinca tra canna, prima che svampino canto il chiel. Questo del pampino verace, alla divaga e angolan nei miei pensieri. Che pesca morso del dirigirambo, stavai lo estirambo. Beva con me, beva, beva, beva, beva, beva, beva, beva, beva con me. Pesca con sole, io salto e scappo, beva con me, beva, beva, beva, beva, beva. Il mondo palpita quando io sorrido, sfido l'ironico lume il destino. Come l'armonico di muto stillo la gioia scalpita sul mio cammino. La pesca morsa Aldo è stroppato, beva con me, beva con me, beva, beva, beva, beva. Prima vigilia d'amore! Ed è ciò che mi spinge! Un po'! Si può! Si può! felicità, quasi ho preduto al sonno. Potello e sabbia, andiamo ai baruarti. Il ride, il ride d'orecchio, vada alle tue spalle, furfante. Iago ribello, verrano le sabbia di salta. Frenate la mano, signore, te ne prego. Ti spacco il cerebro. Avesse quegli svagato il senno, sguainando l'arme, s'avventano furenti. Avessi a prima stroncati i pie, che qui m'addusser. Cassio, come obliasti te stesso a tal segno? Grazia, perdon, parlar non so. Lontano, son ferito, ferito, del cielo già il sangue mio ribolle, agli davanti l'angelo nostro tutelare in fuga. E la mia dolce Desdemona, anche se per voi mi sfolta da suoi sogni. Cassio, non ne sei più capitano. Un mio trionfo. Iago, va nella città sgomenta, con quella squadra ricompor la pace. Si fa corra montano, al proprio tempo ritorni oddurne. Io la non mi parto se pria non ne vedo deserti di spondi. Thank you.

Leggianti amori di monna bianca, altero capitano, col lensatore, col balcheo fregiato. Non lusingarmi, attendi a ciò che io dico. Per sapere che Desdemona è il duce del nostro duce. Sai vive, regala tu quell'anima cortese per te intercetta, il tuo perdono è certo. Ma come fa Bellarde? È suo costume girsi da vergiar fra quelle fronde con la consorte mia. L'aspetta porta aperta la via di salvazione. Falle, Anne, la tua meta già vedo. Ti spinge il tuo dimone. Il tuo dimone son io. Me trascina il mio, nel quale io credo in entrata idea. Niente, Simona. S'è mosso. la saluta e s'avvicina. Ora qui si traga fello. Aiuto, aiuto, Satana, il mio cimento. La conversano insieme e s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Un pian, nel caso il mio favor s'adopra, eccolo al posto all'opera. Suveremos estesa trova un generoso fello vigilante, soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilante, scrutate le parole di Desdemona, un detto fuori con nulla fede può affermare il sospetto. Eccola, vigilante. Tu fanciullo, io sono forse perché troppo mi scendo nella valle non mi chiamarlo. bene, signor. Fabulato, vi trovo una prova sicura. Ed estremole in cura. Non fuggire, non fuggire in una pigiota. Una sicura, una visibile prova. Oh, sulla tua testa, accendo i precipiti. Il fulmine del mio, dalle cose pronte voglio che il mondo testimoni sia che non sta in pericolo. Oh, rimani, forse onesto tu sei. Meglio varrebbe che io fossi un ciurmatore. Per l'universo, credo leone d'estremola, e credo che non lo sia. Credo onesto e credo disleale, la prova io voglio, con la certezza. Frenate l'ansia, la qual certezza va bisogna, avvinti fedeli forse. La tua impresa sarebbe... E qual certezza sognate voi se quell'immondo fatto sempre vi sfuggirà? Se guida è la ragione al vero, una sì forte congettura riservo che per poco alla certezza vi conduce. Udite. Allora il suono cieco letargo sin muto. O mostruosa colpa, io non errai che un sogno, un sogno che rivei un fatto, un sogno che può forma di prova d'altro indizio. E qual? Talor vedeste in mano di Desdemona un tessuto tra punto fior e più sottile. Fazzoletto ch'io le diedi e gli opprimo d'amore. Quel fazzoletto ieri cerca le sue. Lo vedi mal di cassa. Gira me le pietose labbra, tutto il mio vano amore esalo al cielo. Guardami e spalle, nelle sue spine d'angue il libro vince. Sterminatore, dire l'impeto tremendo, presto via che sfolgo di questa man, che io le vuoi stendere. Passate ancor, testimone il sol che io miro, e mi radia l'animo, a piacere il vasto spiro del creato inter, che ad Otello io s'accontenti, cuore, braccia ed anima, s'anca d'opere e crueti. Yeah. continua, qui trarrò Cassio, e con astute inchieste lo adescherò a ciarrar. Voi l'ha nascosto, scrutate i modi suoi, le sue parole, i lazzi, i gesti, paziente siate, o la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, finger conviene, io vado. Il fazzoletto va! Oh, la tua condanna. Di che sei casta. Giusto, lo so. Pensiero e fello. poteri sbagliar tutti i mali della miseria, della vergogna. Balli, trofei trionfali, una macedia, una menzogna. E avrei portato la croce del la croce pronte con calma fronte era segnato al io qui credea di ritrovar Desdemona. quella non ho. Vorrei parlarle ancora per saper se la mia grazia è profeta. L'attendi. E intanto, già che non si stanca mai la sua lingua nelle folle gaie, narrami un po' di lei che ti innamora. Di chi? Di... Sorride! Aie! E Satan vince coi vaghi rai. Rider mi fai! Ride chi vince! In te di sfide per verità vince chi ride. Vecchio trione fa il suo schermo vicine. Dio per la grazia che in cuore mi sta. Son già di baci sazze di lani. Ridermi fai. Amor fugaci. Fateggi il regno d'altra beltà. Colgo nel segno! Leggo mio ride, il suo schermo uccide, Dio e la grazia che in cuore mi sta. Nel segno è collo, sì, lo confesso. Modi sommesso, all'alta ascolto. Piano, è nota la mia dimora. Ogni la colpa. Il modo, il luogo e l'ora. La mano ignoto. Le parole non odo, la so che ogni li vorrei. Dove son giunto? Un bel trapunto. È strano, avvicinarmi, Iago mi facendo. Tagna la mano. Vai, la segno, quando mi parla sapendo di sì. Bella spia, direi che guarda, guarda via, Otello via, e s'avvicina con mosse accorte. Ehi, cavaliere, nel vostro stello perdo gli angeli, l'aureola e per... quello, è quello, ruina e morte. Il mio fello, tutto è spento, amore tuol, l'alma mia nessun più smuova. Questa è la ragna, trova il tuo cor, casa si taglia, si piglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, pane dei miri, pane e buttardi. Questa è la ragna, trova il tuo cor, casa si taglia, si piglia e mor. Questa è la ragna, trova il tuo cor, casa si taglia, si piglia e mor. Mirato la vaga dell'aspo del lago, e raggi tramuto. Thank you. ucciderò. E veste vinto meglio a riso. Didi. E il fazzoletto. Otto didi. Viva alla riva. E condannato. Viva. Facci uomini un veleno per questa notte. Il tuo scopo. Viva. Meglio soffocarla là nel suo letto, là dove ha peccato. Questa giustizia tua mi piace. A Cassio Iago profeterò. Iago, figliolo mio capitano, te leggo. Mia voce grazia mi rendo. Ecco gli ambasciatori. Accogliete, ad evitar sospetti, Desdemona si mostri a quei messeri. Sì, qui la voce. A voi non trovo Cassio. Colui crucciate Otello. Credo che in grazia tornerà. Ne siete certa? Che vede? Rilegge, non vi parla. Forse che in grazia tornerà. Iago, lo spero. Nella procuaci perdonate signore che non io taci onore onore la mente mia non osa pensar che io vi libero a me Cassio che senti quando la mente giunge a Cristo sposo questo voi venerore questo guerriero palesa il tuo pensiero meglio è tenere su ciò la lingua lunga ecco è lui che l'animo ti scuta mentre messeri, il doge, tu fingi il pianto, mi richiama a Venezia, infida sorte, e Cipro elegge mio successore, colui che stava accanto al mio vessillo, Cassio, inferno morto. La parola ducale nostra legge obbedirò. Vedi, non par che esulti l'infame. La ciurma è la corte, continua i tuoi sepolti, e le navi e il castello lascio in potere del nuovo duce. Otello, per pietà, la conforta i tuoi retraggi. Noi salveremo domani. Thank you. allora Maria che ogni sente chi non si scorre contro me lo bello e se

Thank you. diceste questa sera le vostre preci? Uccidere non voglio l'anima tua. Sì, pensa tuoi peccati. Io peccato. Sua mano lo vidi. Io non so. Confessa. Giuro. Madre speciuto. Pensa che sei sul tuo letto di morte. Per morire. Per morir posto. Morire. Mentitrice, io uccisi assassino fu di Cassio da Druda Iago il Chieri Iago stolto e tu credesti legando artici non ti temo. e s'addonava. Obbedienza di voi! Taci! No, tutto di meno! Taci! Costruito la mia a quel fazzoletto spesso mi la forza! E nella mia dimora trovai quel bello! Rodrigo parente mi svelò di quest'uomo l'arte ne parla! Discolpati! No! E qui non ha più follie la spada me fantasi Sposa, mi pacia.